più squillante. Sono due apparati anche diversi, già, capito? Però magari con questo disturbo, capito? Quello è il problema. Si deve sopportare gratta a capi, pure. No, non ho un problema. Devi togliere il bip, se lo puoi togliere, e abbassare l'amplificazione. Boom, e così a fuso. No, bip no. Non si può togliere. Però così dovrebbe andare bene così, perché sto uscendo al di sotto dei watt, non dovrebbe dare problemi. Ehi, accapagava, vediamo un po' se va bene anche qua la roba. Va bene. Che bagare. Gianni. Oh. Ma c'è il tornacco è questo? Sì, il mio, sì. L'altro non c'è più. Quale? Il grande. Sì, ce li ho tutti. Spende poco qua, brutto. Non l'ha giubilato, ma vende in Milo, no? L'ha giubilato, batti in Milo. Cos'è, Antonio? È tutto basso qua, tutto roggero, tutto a zero. Che baracchino, non lo vuole nessuno. Mi ha detto, la giubusa a 35 euro, e non lo vuole nessuno. Boh, vabbè. Lo sei dato? 35 euro, ma non vuole nessuno. Tutto modificato e tutto roggero. Che bagarra! Oh. 35 euro ti rubi giù io. Io l'avevo detto molto tempo fa, tutti non bisogna ordinare, allora rimani oggi. Ma il 35 non posso fare già, anche se uno l'ha 48, ma c'ha canali e tutte robe, tutto pieno dentro, gatto. Arregami un domani di rubare io. Devo recuperare i soldi del prelievo. Ah? 350 euro, non per tanti qui, no? Però già, che ci dobbiamo pagare per i lievi? Ah, come te, anche tu devi pagare per i lievi, come te dice già, non hai compreso, Ma a me non me lo vai a far pagare adesso. Ah, beh, ecco la cosa. Ha detto che me lo fa gratis a me, perché mi conosce, ho capito. E per quello che te lo puoi permettere il baracchino allora. quelle che risparmio lì le uso per prendermi l'A48. È un bel apparecchio. Vaghi sul led bianco della trasmissione, che però ti devo garucci. Ti devo garucci, che ha pagato. Che bagare. Non ti stavo dicendo tu, non la ricordo più. E vabbè, comunque, 35 euro. 35 euro volevo dare a Antonio, ma non ne vuole perché disturba. Mi ha detto non ne voglio, vabbè, io glielo stavo regalando, ma non ne vuole. Manco io ce l'avevo, l'ho venduto perché mi prendeva questi displatter possibili e immaginabili. Se c'era gente a latte dolce parlando, non può prendermi nulla. Se vuoi ti faccio anche il video, non sento nessuno. Se poi metto il filtro, c'è il filtro, lo squelch, dai, c'è dove c'è il tastino, inserisco quello, non sento nessuno. Io non sento nessuno, se lo sono sul 23 io non li sento. No, ma adesso sicuramente non ci sono, per quello non li sento. Se ci sono, già li sento. Perché con la lancora tutto mi ricordo, che anche in macchina mi faceva battimento zero, quando passavano l'atti dozzi, che arrivavano i denti, mi faceva battimento zero, come se si spegnesse la parita. Io mi sento benissimo. Però a pompare pompava forte quello, con 747 ce l'avevo in macchina, ma arrivavo da Porto Torres ad Alghero, cosa che molta gente da casa non ce la fa, da Porto Torres ad Alghero arrivare. Io arrivavo da Porto Torres a Alghero, poi facevo tutta la... da quando partivo ero 9, 9,5, cioè aumentavo sempre di più. Meno di 9 non scendevo. Ma Antonio posso sentire un po'. Ma tu è vicino. Guarda, ti sto mandando il video. Gamba gamba. Vediamo, adesso stiamo facendo una prova, stiamo facendo. Vediamo un po'. Perché dice che Casatrano tutti mi ci porta appresso, Quando parla Gio Maria, mi ci porta tutti appresso. Tutti. Che paga? Adesso sto facendo un'altra prova per vedere se. pesce che me lo dà. Mulinello Shimano 7000 eccetera. Dai, giù regalati il cane a pesca da Foso, già, da surfcasting. Mi guarda il video, così mi dirai se è vero o non è vero. Io qua non sento a nessuno. A malapena mi arriva, mi entrava Antonio poco fa quando è passato sul 23. Guardate il video, capo Rogero, capo. E poi lo guardo il video perché ce l'ho in carica il telefono. Sta caricato perché ho cantato e l'ho scaricato. Se tu devi comprare una batteria apposta. Se non si possono cambiare le batterie, io direi, come faccio a mettere la batteria? Lì mica puoi mettere la batteria, la devi aprire e lì non si può aprire il mio telefono. Devi mettere un caricabatteria Google sempre. Sì, se lo tengo attaccato continuo a caricare mentre canto, capito? Certo. Però il filo è corto e mi dà fastidio perché a volte lo tiro, lo faccio, magari lo rovino, capito? Quello è. Antonio, attento Antonio, se ascolti qua, passa nel 10, capo! Zucchio, la bandiera è prendi. Bubo, vabbè. Adesso c'è gente sul 12, fastidio ti dà luce. Guarda, il video, non sento quelli del 23 neanche. No, non li sento. Non lo so perché, sa così il baracchino adesso. Vabbè. No, io appena l'ho sentito uno. Ma proprio poco. Si è abbassato appena dalle fighe, non lo sento più. Un pochino l'ho sentito, infatti sono andato a vedere chi era e ho capito. Io sento un bip, ma deve essere Antonio che è sul 23. Sono ritornato qua, no, comunque ho fatto delle piccole prove per vedere se abbiamo risolto. Yeah. Cazzo. Gaffa. Hai detto andare a controllare un forro? Sono una buona, vai. Anche diglielo a Gianni se gli piace il mio forno, diglielo, dai, arrivo subito che vado a controllare. Diglielo, certo che anche tu metti un bene, no? Gianni! Se sono praticamente anche in ricezione, se sono staranti, pigliano tutti i gol. Basta stare tutti in un canale, i colpi non li bilia nessuno. Siccome ci vogliono separare tutti, allora devono anche prendersi i colpi, cosa ci sono. Sono abbastanza limitato. sono col baracchino, non sto né pompando né nulla, penso di non disturbare a nessuno. Ma dimmi. E beh, l'hai guardato il video? Sì, adesso lo guardo, che non l'avevo ancora guardato. Ma baciava a squelce, metri che ballacche, no già? Beh, bisogna che uno si regoli anche, non è che può. Io quando c'ho splatter so come fare, infatti non lo so, se fanno le cose che faccio io non se appena appena basso lo squelce non intendo più. Allora, infatti. Il problema è che se entra qualcun altro devi tenerlo aperto, perché magari qua in zona va bene con lo squelce e qualcuno più lontano non lo senti più poi. Ma la passa appena appena, lui non è che lo chiudo troppo, no, la passa appena appena, di un attacchetto e mezzo e non ne sento più. Perché io splatter furti non ne prendo, capito? Non ne prendo splatter furti, li sento un po'. E non si capisce come con le parole, sono tutti i miei topogli già. Io già mi sento una voglia. Cappa! Vabbè, già. Io non mi sento bene, arrecare le remeitate, ma poi mi dite. Domani che scioglie l'antenna, di vero cosa becchi qui? Senta, mi ha capo grosso che fa. Ma sai cosa ti fate chi sono? Ti fate nulla di fatto. Ma le hai cambiato il capo? Certo, gliel'ha cambiato Luca, ha fatto un bel lavoro. Ah, ecco. Allora sì, allora magari già regge. Ma col capo che c'hanno queste antenne, lui non regge di nulla. Io con la matova 5 avevo messo un capo grosso all'interno, capo, e potevo attaccare le parti che volevo, non li faceva nulla. Mi chiedeva a Luca, ma quando ti credi che rende così tanto in antenna? Ci sarà un motivo, perché è normale, non avrebbe, sì, avrebbe reso, ma non così. Ci saranno dei motivi anche, perché a tanta resa? La pagosa. Perché è Abarth, gli ha messo il motore Abarth. Abbiamo allungato con la carta stagnola già. Capo, no, ma gli hai messo anche quel capo particolare fa andare forte l'antenna, perché dici tu, rigido e grosso, capito? Allora che tu te ne inghisso, regando me attacchi più. Si scioglie prima il BL, anzucco. Si scioglie prima il BL che l'antenna, che è il coso, che è quel capo lì. Quel capo è un bel di chilo. Ma con 300 watt non si scioglie nulla, con 300 watt la regge tranquilla, lo regge. Voglia. E comunque io con il capo che c'avevo nell'antenna, nella matova, manco lo sfruttavo, perché potevo attaccare un medivate, non li attaccavo, non ne avevo lineare, quindi l'ho sempre usata normalmente, dai. Capo, perché ha tutta questa resa, questa antenna? Perché è stata modificata? Devi dire grazie a Mastro Luca. L'ha fatta per bene, l'ha fatta. Sì, ti faccio vedere. Tu, Marrano, attacca il tuo strumento. Schiacci la portata, non si muove nulla. Perché lui c'ha anche gli strumenti per misurare, per fare, riesce a regolarla con gli schermi. È fatta bene, non è, cioè, ha fatto pure acqua bomba, domani che si muove il rosso. Sempre io ho provato, no, non si muove nulla, no. niente frutto. Bene. Non ho fatto i guai neanche, diglielo tu. No, va bene, abbiamo provato la bomba a vedere se... Ma con la televisione mi ha comunque riguardi, anche perché c'è un capo buono che mi dispersa. E il capo di discesa che cosa hai messo tu? H155 l'ho pagato, però sono sicuro che non ho problemi. Io c'ho l'H100. Ah, l'hai cambiato? Sì, quando ho messo messo l'antenna nuova ho cambiato tutto, faro, antenna e cavo, tutto. La Camilla c'ha? H100. Non l'ho mai visto. È quello grigio. Come quello grigio? L'H155 c'hai? Io so dell'H100, pure. Delle RG58 praticamente è grigio, invece che se ne è nero. No, io ho messo la RG55 e no, devo dire che l'ho pagato una mattata, però devo dire che capo, non ci sono paragoni, non ci sono, e va veramente bene, perché poi la casa consiglia pure il capo, grosso, quindi più è buono e meglio è. Tanto che ne dicano quanto ne devono dire, però io l'RG58 l'ho avuto 12 anni e mi è sempre andato bene, arrivavo bene da tutte le parti, magari avevo anche delle perdite, però io vabbè ne ho messo 22 metri, 22 e andava benissimo. Quando l'ho tolto l'ho tagliato e non era nero dentro, c'era sì, era un po' seccata la guaina dopo 12 anni. Ah, questo è eccezionale, questo è l'ultimo, no, lo monto a mettere io buono, non voglio. Che mi è schermato, c'è la carta stagnola all'interno. C'ha i fori e poi c'è la carta stagnola che avvolge tutto. Così è fatto, non me lo ricordo molto bene io. La carta stagnola l'abbiamo usata, tanto non te lo ricordi, abbiamo fatto il pollo. No, nel capo c'è la carta stagnola. Ma l'abbiamo tolta, ti ricordi, per fare il pollo al forno? No, per fare il pollo al forno si usa la carta forno, non la carta stagnola, ti sei sbagliato. Ma non ne avevamo già, agita, allora facciamo così, spogliamo il cavo, l'abbiamo comprato, la di 2 anni fa, non te l'ho mangiato. Però prova a metterlo nel microonde la carta stagnola, senza dei cuffi, è vero, sì. Una volta ho fatto lo sbaglio che avevo il pollo arrosto dalla mattina per non stare attaccato in forno, e lo metto nel microonde, ci aveva un po' di olio, cazzo, ha fatto pa. Se no se ti dimentichi la forchetta o il cucchiaio, oh yeah. Vabbè, uno a me mi è partito, l'ho cambiato da poco, me l'ho comprato, sarà una settimana fa. Questo noi ce l'abbiamo anni e anni, è sempre un problema, vabbè, non è che lo usiamo soprattutto per se c'è da scaldare qualcosa che è rimasta a pranzo, ma a secondo pure che cosa di scaldare, se no te la va di muda, capito? Secondo cosa è, non va bene. Io lo uso quando mi dimentico il pane in freezer, per congelare il pane, boh, basta. Qualche cosa la scaldo, ma proprio molto di raro, lo uso molto per scongelare. Ma lo fa molle, a meno che non metti programma, scongelamento, quelle robe lì, parte, poi si ferma, poi riparte. Basta che tu lo metti forno e grill insieme, non lo fa molle. Ma tanto non andate a ruzzigarmi, capitato di magna, allora si magna le UBL. E comunque c'è ragione, se lo fai solo scongelamento diventa voodoo. Ma va bene per chi non c'ha denti, per te va bene. Ma proprio per il pane, no, i panini o queste cose qua no. Le spinaci sì, perché loro sono molli di sé, ma lo banino dopo si fa dei buttibucci. Poi se tu lo lasci, quello che si fa molle, si indurisce un bel in fretta, capito? Se tu lo lasci che non te lo mangi subito, si fa di duro. Beh sì, è vero, no, non mi piace scongiare il pane, solo le spinaci, se capita, nel microonde. Ma a me io scongelo quello che vi mangia a tavola, capito? A pranzo. Mi ne scongelo uno, l'altro lo lascio fuori, poi già si scongela da solo per la sera. Però intanto uno, per fare in fretta, lo metto nel microonde e 5 minuti, poi non so nemmeno se questo microonde faccia bene o male con queste onde magnetiche. No, non lo so. No, io so il panino invece dove lo scongelo. Nella friggitrice d'aria. Nella friggitrice d'aria lo vado croccante e burro, capito? 5 minuti, dai 4-5 minuti il panino però. Fa scongelando e te lo fa croccante anche. Una figata, guarda. Io le spianate adesso dove li scongelo, le metto sul fornello, li faccio due giri e sono già scongelate. E anche, certo. Sì. E se no quando ne rimangono me, io cosa faccio? Le divido in due, le metto nella teglia, un po' di cose, di olio, di sale sopra, diventa tipo pane carasau, in forno, solo a grill, oh yeah. Invece io prima con le spianate vi facevo la pizza, ci mettevo il pomodoro, ci mettevo la mozzarella e il condimento, poi la mettevo in forno, me la mangiavo, ma lo so quanto è buona. Ma no. Aspetta che dice per adesso c'ho un video. Un po' di origano e via. Quando mi va mezzo in base a tutto. Mamma lo sai cosa faceva? Il pane duro mica ce lo buttavo, lo faceva al forno col sugo, tipo pizza così. Cos'è che anteravo? È tutto calorese. No, mi sa che lo bolliva prima, poi lo metteva in forno e lo condiva col sugo, con la mozzarella, formaggio, tutte queste cose qua. Aspetta quando lo mangiavo, sembra una pizza. Perché dove devo fare le sono proprio le signore che lo fanno in casa. C'è un amico che è norese e va a prenderselo apposta, va a prenderselo a Fugli, poi va a, come si chiama, a prendersi il formaggio del fiore sardo a Gavuri. Ma non è tanto è buono col fiore sardo lui. Guarda, io l'ho mangiato e buonissimo. È buonissimo. Lo sai cos'è? Non fa affettarlo perché è stagionato e ne esce a pizzi, però c'è un sapore quel formaggio che è micidiale. Ma è buono, eh. Oh, yeah. Io ho questo amico che praticamente si abita a Sassari, però è di Nuoro e lui ha tutti i sapori, le cose. Va a comprare fuori, va, si compra l'agnello, si prende il vino, si fa il giro, quando va si fa tutto il giro, fuori va a comprare quello, poi va a prendere il formaggio, poi va, si prende un agnello, un porcetto, capito? Si fa la spesa e poi se ne torna a Sassi. Sempre portare il pane carasau, mi comportava neanche a me 2 kg, se ne prende anche 6-7 kg. Quello è 12. Cazzo, buona regola. Sai che cosa c'ha di buono? Che è bello abbrustolito, bello croccante, bello anche il colore, è abbrustolito bene. A me mi piace quello che ha un po' di nero sopra, mi piace abbrustolito. E così era quello che stavo mangiando l'altro giorno a Castelli. Ah, buona questa cosa, Luglia. È buona, buona, buona, proprio buona. Chi è avanti? E io, buonasera a tutti e due. Buonasera a lei. Ciao. Ehi, saluto da tutti e due. Cazzo, su canale di Mercetta dove siete, cazzo strano. Tu ce ne hai parlato? Cos'è questo bip di superiorità nei confronti degli altri? Cavagava. Lo so perché mi dice il bip. Ho capito, cosa mi hai chiesto? Rosa Verde mi diceva quando avevo il bip dell'aereo in quinto, cioè avevo il bip non si poteva togliere, e mi diceva dopo ho rotto lì questo bip perché hai un senso di superiorità nei confronti degli altri. Ah, quello era, ehi, ma che fine ha fatto il saliente? È morto, ehi. C'è un giorno che è morto. Lo vedevo sulla BDV di d'estate con questo cappotto pesante. Io ho detto di un gallo che va a era sempre con un sacco, con una bisaccia sulle spalle e con questo cappotto lungo di quelli pesanti. Aveva due lauree che ha fatto la vita da miserabile. E beh, voi scusi Antonio. Non era tanto zincaro. Non era zincaro? No, non è che non era zincaro, aveva il vizio del bere. Perché io gli apparecchi che ho ce l'ho da quelli, quindi non ne sto più comprando, sono tutti funzionanti, quindi cosa me ne compro a fare? Tanto per bocaglietti, poi quando li compro sempre su internet, io non ne compro mai qua. Tu pensa che la GBC ci aveva dall'an 48 che costava 80 euro in più di quello che c'era su internet. Quando gli ho detto, ma tu mai internet non ti fa, come si dice, non ti fa la garanzia, chi l'ha detta? Poi mi mandano lo scontrino in garanzia l'apparecchio. Io ho avuto problemi con l'apparecchio e me l'hanno cambiata addirittura. Se te lo ricordi l'avevo portata a casa tua con l'alimentatore da 50 ampere che l'ha guardata anche tuo padre, mi ha detto già non c'è nulla da fare, rispediscilo e te lo fa mandare nuovo. E così ho fatto e me l'hanno mandato nuovo. Ci hai messo a voce, vai e compratelo su internet. Provate, sì. Avanti, Antonio. Ehi, ok. Siamo tutto sbasato io, grande pratica. Adesso siamo su 10 in pratica. Vado su 9, è giunto strano. Fattore, eri su 9 e ci sentivi su 10. Sì, perché c'ho più 10, sto usando il codice 4000, hai capito? Ed è totalmente diverso come frontale. Ma è spostato allora, se sei su 9 ci siete su 10 è spostato. No, ho messo il frontale, ho tolto il codice 4000, come frontale ci ho messo quello del 3009, hai capito? Ma è uguale. È preciso, più o meno, sì. Perché l'hai cambiato, Tomè? Perché è più bello. Il Codex 4000 del frontale l'ha fatto Nino Cavazzani. Lui c'aveva il Codex 4000 e gliel'ho regalato. Adesso va bene, adesso è perfetto. Ho capito. Siccome a me mi piace il colore del 2009, lo sai che tu, vale un sacco di soldi, capito? Quel colore metallizzato così, se ne trovano pochi, quindi a un certo punto me lo sono piazzato, basta, tutto lì. È fatto. Non sapevi cosa fare, ti sei assillato. Sì, invece dell'altro ci ho messo la mascherina del Tornado 4005, da 3009 Tornado 4000, vabbè, quello omologato già lo sai, ce l'ho 20 anni così, quel 3009, quello nero, sta parlando io. C'è quello cromato, però l'ho venduto, era nuovo, me l'ho venduto perché era in più, ce l'avevo in più, dai, non la faccio più nulla, me l'ho preso perché mi piaceva, si sentiva un bel bene, e usciva anche bene. E infatti appunto per quello ti ho fatto così io. Ti hanno regalato il conto di 4.000 e siccome funzionava benissimo ho fatto altro che togliere la mascherina di uno e metterlo nell'altro. Ci avevo conservato quella del 2009 e ce l'ho piazzata ed è perfetto, ma sai che quanto è bello. Vabbè, a me già mi piacciono più le stazioni base per casa, ma già sono belli quegli apparecchi perché ti prendono all'occhio. Anche il 3009, quello cromato è bello, vai anche tu lo sei messo. Quanto sembra sì. Volevo interrompere di finirla, per favore, mi state disturbando, io sto lavorando qua, voi state lì a chiacchierare, parlare, dire, fare, invece di mezzo al mare. Vai, cocca, vai. Oh, Lu, hanno inventato il potenziometro, serve per quello, lo giri verso sinistra e si spegne l'apparecchio, così non ti disturbiamo più, eh? Bene, dai, che sto io, sto sistemando una... Come si chiama? Una... Quale potente aspirapolveri? Non mi ricordo, il folletto. C'è la moto del bloccato, sembra che sia a posto adesso. Bloccato in che senso? E toccava da qualche parte, l'ho smontato, l'ho rimesso a posto, come sembra che fa. E aspira adesso. Si gira il motore e dovrebbe aspirare in teoria. No. Tu provalo in casa, ne muti un po' di cose e poi lo aspiri, vediamo un po' se fa. Certo che farà, riprendi buon po'. Cappa, cappa, tu pompa, pompa, fregate, pompa, pompa. Adesso stavo cercando cazzo 20 persone a mettere incinta 20 ragazze talentesi, ti danno 4.000 euro, mi sa che vado e le metto incinta, cazzo, per prova. Ma la gara che puoi gravità. Ah, se funziona, sta tranquillo, io mi ritiro di sotto e poi me ne vado, un po' che se ne frega del coso, a un certo punto. Allora nascono più di figli. Che sono i miei. Ti dico il fatto della seminata e mangiarseli. Dov'è che li stanno cercando? Non ho capito dove. In Thailandia. Ma poi ne esce uno con un baracchino in mano. Di chi è quello? Di Antonello. Sei lui. Luca. Ciao Lu, buonasera. Sta facendo cosa Luca? Ciao Antonio, già, scusate, devo chiudere questo folletto, sembra che funziona, mi senti qua, guarda, prima non andava, esci idea, esci, fate la cuccia, intendo il motore. E a Puglia, ma l'hai già chiuso? Adesso l'ho chiuso. Perché non tocchi magari come chiuso? No, adesso mi lavo le mani, arrivo subito. E via. E via, capo. Parti in telati. Antonio, poi ti arrivo con tutti i guanti abbassati. Non ho capito, dimmi. Con tutti i guanti abbassati, bene ti arrivo. Sì, sì, a voglia. Aspetta che c'ho. Ciao. Arrivare, non ho capito. Ok. Se va bene. Comunque c'è un coso mio. Un sito. Un sito, va bene. Chiamalo come caso, come vuoi ti piace. Che adesso parlano in DMR, cazzo, dalle montagne per arrivare in tutta Italia. Poi vabbè, sono usciti adesso, ho visto questa pubblicità ieri, gli apparati CB con la, cioè CB, gli apparati con la SIM in pratica, tu ci infili la SIM e parli con che cazzo ti pare ti piace, per fare i tuoi, lo possono usare qualsiasi persona, quello che è industria, quello ti posso dire, ci metti la SIM e sei a posto. E parli con tutto il mondo. Sì, ma è sempre una cosa così. Fa trovare il municipio tolto. Oh, ma è bello che con una ne apri, ne fai, sputo ai 5, tutta assieme, capito? In pratica imposti il programma di uno, li imposti in tutti e cinque. In pratica te lo porterà presso cinque persone e parli con cinque persone tranquillamente e con la simi tua. Il discorso è quello. Il discorso è così, vediamo se va bene, la stanno lanciando, se va bene è una cosa buona. Però con la sim è troppo comodo, ci sono muri tutti, in pratica con 5 euro, 10 euro, devi caricare ogni mese, parli con tutto il mondo, e cazzo, è la stessa cosa che deve avere. Lo stanno facendo in pratica per i coglioni alla mitra, capito? E di portata cosa c'hanno? Poi facendo con la sim basta usare il telefono per parlare, la stessa cosa, già si è abbigliato l'altro apparecchio. Tutto il mondo, puoi pigliare 5 apparati, di poi, cioè da uno puoi memorizzare, in pratica la semi tua, eccetera, eccetera, e poi distribuirla a 5 persone, il discorso è quello, hai capito? Lo stanno facendo più che altro per le aziende. Sì, quello l'ho capito, ma non ho capito quanti chilometri ha di portata. Parecchi a quanto sembra, poi non lo so, bisogna vedere questo, io non l'ho mai provato, il giorno che lo proverò vedrò come stanno le cose, e il discorso è quello, dice che abilitato a tutti, non ci vuole concessione, non ci vuole niente, quindi a un certo punto non è posso dire, è come avere lì, tra poco vedrà che non ci metteremo molto, vedremo i cazzi baracchini, di cazzo che ci mette la simicazza e parli tranquillamente con tutto il mondo, non c'è bisogno di fargli di ex, non esiste più di ex, non esiste più lineare, esiste solamente l'antenna e basta, anzi forse neanche quella gira. Più o meno sì, stavo pensando a quello. Faccia le cose come sono, Antonio. E io sì, ma te lo sto dicendo, ho visto la pubblicità su Facebook di oggi, in pratica questi apparati qua, cosa ti posso dire? Anche, vabbè, anche per cosa usavo, Zello usavano, Zello la cagata, c'era poi usavano tutti. Gente, no, la prova eccetera eccetera, è come andare, cosa ti posso dire, a un bar, in quel bar lì, cazzo ti danno eccetera eccetera, ti rivedi, ci sono quelle ragazze, tutte pronte, e tutti vanno lì, come fanno a Sassari, tale uguale. Dopodiché, una volta finito il coso, passi da quel bar e te ne vai in un altro, tanto per dire, perché quello non va più bene, il discorso è quello lì. La stessa unica cosa sembra, cazzo. Non lo so, io non l'ho mai provato la verità, una cosa del genere, ma comunque se vediamo un po' cosa diranno le persone che si compreranno quegli apparati lì, sono cellulari, se tu guardi sono cellulari, Dai, io sto andando, dai, vi saluto e devo portare giù il cane. Ciao Antonio, ciao Antonello, ciao a tutti gli amici che sono all'ascolto, quello ti per me. Ciao Giacio, noi ci sentiamo, poi ciao ciao. Avanti Antonio. Ehi, ciao Giacio, ci sentiamo. A dopo, ora. Non c'è problema. Per me la radio deve andare con l'antenna, baracchino deve andare con l'antenna. Quelle cose lì sono tutte spazzatura, sono, deve ritornare il CB normale, le altre, le dici che ha di Midra, che sono inventate applicazioni e cose, devono poter scomparire per me. Cazzardi e voglio far scomparire in pratica la 27, più che altro, là. Il discorso è questo. Perché, cioè, a comprare questi apparecchi sono in pratica dei cellulari solamente. Se tu guardi su Facebook, c'è questa roba qui. E noi, vabbè. Ormai noi siamo alla vecchia moda, a un certo discorso. cosa dobbiamo fare, ragioniamo così, il discorso è quello. Basta solo provare al limite, comprarne due, se la questione va bene, che non paghi un cazzo, con questa scheda il discorso è diverso, ma se fai l'abbonamento si può prendere in culo l'apparecchio, cioè in pratica ho visto che è un cellulare, cioè, hai capito? Quindi a un certo punto è come avere un cellulare in mano, tu e parli. Il gaggard, lo baracchino deve essere il baracchino e le radio devono essere il radio, punto. È troppo comodo arrivarci così, con la RIM, con cazzo voglio qualità, invece non è proprio una interferenza, non è niente. Ma che senso ha? Ma che cagata è? Scusami. Ma che cagata è? Ma lasciamo stare. Allora ci hai detto anche tu, l'hai detto, quindi non ti sto dicendo che sono fatta a un certo punto. Vabbè, io la verità non ho soldi a spendere così per il momento, a comprarmi, cioè, una carta, l'apparecchio e infilarcelo nel fianco, okay? Hai capito? Cioè, da un apparecchio, tempo pilota alle 5, il discorso è quello, tutti nella stessa frequenza, il discorso è quello. Okay. Che è troppa gente, intendi calabrese, intendi cose, ma non parliamo la stessa lingua. Io ci ho provato su Jupiter, maleducati, caffoni, pieni di parolacci, tanti problemi, né genitori che non vanno bene, quindi io direi anche lasciare il mondo come va, è meglio. Penso che il cibito rimanga così com'è. Io spero solamente che questa storia qui la usino i vigilanti, i notturni, quello che è. Almeno usano una cosa e non pagano niente, capito? Il discorso è quello lì. Ci mettono una sim e sono a posto. E posso dire se sono ad Alghero, se sono a cosa, non devo stare con i punti, eccetera, a parlarsi, no. Così almeno sparisco i punti radio, eccetera, eccetera. È quello che stanno facendo, okay? È capito? Cioè in pratica con una scheda ricaricabile posso tranquillamente parlare con chiunque sia, magari io penso che sia il 5G, perlomeno penso che io sia, sto pensando a quello, hai capito? Il discorso è quello lì. Se l'ho visto ieri e la verità sono rimasto secco. Esatto, lui rimane, mi intende, a me mi piace il baracchino, mi piace installarmi l'antenna e mi piace così, punto. C'è una buona antenna installata, vai dovunque. Io me ne sono accorto la differenza che c'è. Ormai purtroppo hai capito, vogliono usare il 5G, eccetera, eccetera, capito? Roba cinese e basta, il discorso è quello lì. Ma se fa poco magari faranno i baracchi di 5G, ci metteranno la scheda SIM e fare con chiunque vuoi a un certo punto. Perché il 27 domani morirà senz'altro, tu vedrai che parlano così, te lo dico io. È un problema di cose, di Sardegna, perché fuori sta andando alla grande, sta andando, è come, anche la 27 è normale, è un problema di Sardegna. Ok, dai, non devo lasciare che vado a mangiare, ci sentiamo. D'accordo, ok, ciao, alla prossima, buonanotte, buona cena, buon tutto da parte mia. Ciao, ciao. Via, ciao, ciao, ciao. Ciao, Torello, buonasera. Cara, buona anima, come stai? Tutto bene, tu come va? Così, andando sto me, la verità. L'antenna è scesa giù, pensa che era sciolta, l'ho sciolta la verità, e quindi sto usando una ruota di fortuna. Io ho detto a un certo punto c'ha uno e cinque di stazionale, quindi figurati tu, tu arrivi, fa passaggio. Comunque qua stai arrivando, qui stai arrivando abbastanza bene, modulazione bella pulita, chiarissima. Caspita, andrà bene. La signora, tutto ok? Ciao Marie, ciao, ti ho sentito e ti sto salutando. Tanto grazie, mi saluti la signora e il chiellino. Tanto grazie, mi saluto. Sentiamo. Avanti, Antonio. Ok, no, io la verità sto usando un coso, una tenda che mi ha prestato, quindi a un certo punto la mano va fusa, non fusa con 800 watt. Se tu ti mando il cavo, la foto ti metti a ridere, cazzo, nel capo che hanno messo in una moto va turbo, cazzo. Ma che sembra logico, io mi sarei messo a ridere, cazzo, vabbè, neanche comprato una leggera, purtroppo il cazzo lo sapevo che era in queste condizioni. Il cavo da uno c'era, il cavo da uno, sai cos'è il cavo da uno? Di diametro. Fine. Proprio l'hai sciolta. E quanti vatti ne hai dato sotto? Quanti vatti ne hai dato? Certo, molte volte le aziende si cagano in certe pezzerie, invece di mettere il cavo grosso, metto il cavo sottile, logicamente, secondo cosa stai facendo, si scioglie. Oh, yeah. Andiamo, 9.5 sta arrivando più ottavo, 9.5, la radio è la tua, è ultima. E 9.5 sei anche tu, la stessa cosa, no, la questione non è che... Cazzo, non si può costruire la verità, cioè se l'antenna è data per 1000 watt, non puoi costruirla con un cavetto a canto fine, neanche quasi da uno, anzi è da uno più che altro il capo, hai capito? Fine, ma fine mi, sai cosa vuol dire fine? Ho fatto un diploma con quello, cazzo. Ehi Antonio, ti conviene, la prendi, la scegli giù in garage dove sei tu, sotto la fai la pulita e le metti il capo rosso e te la ripiazzi, e sei a posto. Ah, sono fortunato che in pratica l'antenna è integra, cioè in pratica non c'è nessun segno di... come ti posso dire? Non c'è nessun problema per poter svoltare, la verità si dica, ma comunque adesso gli faccio la modifica in modo da il cavo più grosso, il piede è totalmente diverso, in modo che possa reggere, lo metto in batterite, in modo da possa reggere almeno 2 kW e mezzo, perché non è possibile, capito? Poi li metto i radiali, quello uguale agli originali, ne mancano 2 più che altro, non è che ne mancano tanti, ma comunque ne mancano 2, gli faccio il foro e ci arrivato un nuovo sopra, perché nuova, secondo me non c'è un filo di ossido, niente, la verità, sono stato fortunato con quell'altro vocalizzante che ci ho messo, sono stato fortunato, la verità. E lui che adesso cosa fai? La rifai l'uovo, poi vedi il capo grosso, i radiali, scendi giù al bricco, me ne scopri i tubi in alluminio, io faccio i radiali, come ho fatto io l'altra volta, ho preso i tubi e glielo ho sistemato, capito? E va bene. Comunque il segnale già va bene, 9.5, la radio Super 5, là. Anche con quella che stiamo utilizzando, va bene, là. Non stai arrivando 9.20, 9.18 come prima, però già ci sentiamo, diciamo, dai. Allora, Vabbè, io sto usando, la manta, per la verità, me l'ha pensata capita, me l'ha pensata l'antenna, quindi vabbè, 1579 va benissimo, non me ne frega niente, adesso aspetto solamente a, a fargli il lavoro, che si sistemi il tempo, in modo da, da fargli quella modifica che ho fatto dell'altra, in quel lavoro da Stefano, quindi col cavo da un e mezzo o due. Hai capito? Ma la potete portare quello che vuoi e non c'è nessun problema. Esatto, un altro tanto del foglio, c'è qualcuno che vuole entrare avanti, si può entrare. E ciao Marino, ciao anche Antonello. Stavo provando una radio a vedere come mi ascoltavate. 9:10 Franco, buonasera, ben fatto. La radio è Super 5, dai, è la tua modulazione proprio in presenza. E ciao Antonello, buonasera. E Antonello, a te quanto sto arrivando? Sto provando un apparecchio omologato e volevo sapere appunto come stavo uscendo. 9,5,6 qua, voglia. E sto usando un Cobra omologato. Vabbè, mi interessa, faccio la radio, lo so che non è preamplificata, l'importante è che esca bene. Ma già esci bene, non ti preoccupare. Sì, a voglia. Sì, va bene Maria, microfono normale questo, No, no, la radio è la tua, La radio è la tua, la tua modulazione è la tua, bella chiara, ottima, ottima, va benissimo fra. Sì, ok, dai, volevo sapere quello, se sta facendo bene. Perché ce l'avevo di tempo fermo, Antonio, ho detto, ma adesso la provo a vedere se funziona ancora questa radio. Tutto qua. Ok, riprendi Maria. Va benissimo. La signora sta a posto, sì. Ok, Mari, tutto a posto, dai. E con l'amico l'avete chiamato per quella questione? No, perché poi praticamente non sono andato neanche io perché non sta bene quella persona, quindi mi ha detto che mi avvisava, ha avuto problemi, capito, di salute, quindi ancora niente, Mari. Ehi, vabbè, quando siete pronti, te lo sai, il nuovo passato. E se in caso io l'avverto io, non c'è problema. Ok, avanti Antonio. Ehi, già vabbè, non c'è problema per quello. Arrivi bene, a voglia. Sto utilizzando un Cobra, Antonio, quello che fa è un apparecchio nuova generazione, è questa. E lo stavo provando giusto a vedere come stavo uscendo, tutto qua, capito? Sta uscendo bene, non ti preoccupare, ci mancherebbe. Una bella radio il Cobra, niente da dire. Grazie a Dio, sì, è a posto. Accendo il micchiere al minimo, aspetta un momento, eccolo qua. Adesso è meglio, no? Sì, adesso va meglio, la verità va meglio. E l'ho aumentato i miei figli. È sempre la tua modulazione, sempre bella, limpida, ottima. Provo l'altra e ti faccio sentire l'altra radio, vero, mi arrivo. Mi segnale fra, sempre 5-6, no? Cosa? Mio segnale, sempre 5-6, così è. Il segnale tuo è 9-5-9-10, Marisa, ma Antonello è lo stesso, 9-5-9-8, va. Ah, va bene, dai. Attacca la radio, avanti Antonello. Volevo sapere la differenza da questa all'altra. Prova, prova, un po'. Ehi Mari, guarda questa com'è. 1, 2, 3. Ehi, che cazzo. Sei 9,25 adesso. Guarda un po' adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dovrei essere 9,30 da te, Antonio. Ehi Mari, da te quant'è? No, sono 9,25 da me, non sei 9,30. Comunque sì, la radio è forte, anche il segnale. Siccome sempre stato attaccato al lineare. Ma no, tu sei liscio, questa esce con i suoi guardi. Maria, da te quant'è? Vedi un po'. Va bene, Fra, va bene, anch'io con il tuo radio. Guardami la modulazione, se va bene, o è troppo alta, troppo bassa. 9,20 e radio Super 5, di uso alla grande. E adesso sto usando un presidente Johnson, già va bene, dai. Ok, avanti a te. Sì, sette col presidente Johnson, comunque sì, va bene così. Maria, il segnale da te quanto è questo adesso? Adesso questo si infonde. Aspetta che attacco il cable, vediamo se cambia la situazione. Adesso sono con il 4000. Aspetta un secondo con il cable. Maria, il segnale da te quanto è questo? 130, 925, là 5, proprio il fondo tondo. Aspetta un secondo e te lo dico. Vediamo quanto mi dai a me. 2 minuti. Fai. Mario invece da te com'è? 9.20 con questa radio, 9.20, già lo sai, in radio cambia il segnale, questo sto usando un presidente giusto, vai, lo cancella con l'altro apparecchio, con la base, va bene, la ultima modulazione fra lo stesso, vai. K di positivo, ok, vai. Già va bene allora. Ultima, va bene, dai. E allora, Zavaccano stai, sì. Zavaccano, tutto positivo. Già va bene, dai. Io sono discesa, fra, lavoro fino al 20, poi vado più fede e ho terminato, Fammi un abbasso un attimo, vai, fa la cortesia. Oh, non ho capito. Farmi un abbasso un attimo. Ti faccio un abbasso, vai. Beh, come va adesso? Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9, 20, 20 e qualcosa, sì. È radio 5, la radio non è molto forte, Antone. Vabbè, sto per accendendo, cosa vuoi? A un certo punto, sto per acceso l'apparecchio, mi. Ah, il capo, allora, aspetta un secondo, Antone, c'è un abbasso in corso. Fai con comodo, non ti preoccupare. Ho capito. Fregate. Quindi, le mie operazioni, la moto va peso totalmente di basamento, come peso, cioè come costo, il discorso è quello.